canto 27 della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto 27. Già era dritta in su la fiamma e queta per non dir più, e già da noi sen gia con la licenzia del dolce poeta, quando un'altra che dietro a lei venia ne fece volger gli occhi alla sua cima per un confuso suon che fuor n'uscia, come il bue cicilian che mugghiò prima col pianto di colui, e ciò fu dritto che l'avea temperato con sua lima, mugghiava con la voce dell'afflitto, sì che con tutto che fosse di rame pure el pareva dal dolor trafitto. Così, per non aver via né forame dal principio, nel fuoco in suo linguaggio si convertivan le parole grame. Ma poscia che ebber colto lor viaggio su per la punta, dandole quel guizzo che dato avea la lingua in lor passaggio, udimmo dire: «O tu, a cui io drizzo la voce, e che parlavi mo lombardo, dicendo: issa ten va, più non t'adizzo, perch'io sia giunto forse alquanto tardo, non ti rincresca stare a parlar meco, vedi che non incresce a me, ed ardo. Se tu pur mo in questo mondo cieco caduto sei di quella dolce terra latina, onde mia colpa tutta reco, dimmi se romagnuoli han pace o guerra, ch'io fui de monti là intra Urbino e il giogo di che Tever si disserra». Io era in giuso ancora, attento e chino, quando il mio duca mi tentò di costa dicendo: «Parla tu, questi è latino». Ed io, ch'avea già pronta la risposta, senza indugio a parlare incominciai: «O anima, che sei laggiù nascosta, Romagna tua non è e non fu mai senza guerra né cuor dei suoi tiranni, ma palese nessuna or ven lasciai. Ravenna sta come stata molt'anni. L'aquila da polenta la si cova, sì che cerbia ricopre co suo vanni. La terra, che fe già la lunga prova e di Franceschi sanguinoso mucchio, sotto le branche verdi si ritrova. E il mastin vecchio e il nuovo da verrucchio, che fecer di montagna il mal governo, là dove soglion fan de denti succhio. La città di Lamone e di Santerno conduce il leoncel dal nido bianco, che muta parte dalla state al verno. E quella, a cui il savio bagna al fianco, così com'ella si è tra il piano e il monte, tra tirannia si vive e stato franco. Ora, chi sè, ti priego che ne conte, non esser duro più ch'altri sia stato, se il nome tuo nel mondo tegna fronte. Poscia che il fuoco alquanto ebbe rugghiato al modo suo, l'aguta punta mosse di qua, di là, e poi die cotal fiato. S'io credessi che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma perciò che giammai di questo fondo non tornò vivo alcun, si odo il vero, senza tema d'infamia ti rispondo. I fui uom d'arme e po fu cordigliero, credendomi sì cinto fare ammenda. E certo il creder mio veniva intero, se non fosse il gran prete, a cui mal prenda, che mi rimise nelle prime colpe, e come e quare voglio che m'intenda. Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpa che la madre mi die, l'opere mie non furon leonine, ma di volpe. Gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte, e sì menai lor arte ch'al fine della terra il suono uscie. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia età dove ciascun dovrebbe calar le vele e raccoglier le sarte, ciò che pria mi piaceva allor m'increbbe, e pentuto e confesso mi rendei. Ahi, miser lasso, e giovato sarebbe! Lo principe dei nuovi farisei, avendo guerra presso Laterano, e non co Saracin né con Giudei, che ciascuno suo nemico era cristiano, e nessuno era stato a vincere Acri, né mercatante in terra di Soldano, né sommo ufficio, né ordini sacri guardò in sé, né in me quel capestro che solea fare i suoi cinti più macri. Ma come Costantin chiese Silvestro, dentro si ratti a guarir della lebbre, così mi chiese questi, per maestro, a guarir della sua superba febbre. Domandommi consiglio, ed io tacetti, perché le sue parole parver ebbre. E poi ridisse, tuo cuor non sospetti, finor t'assolvo, e tu mi insegni a fare sì come penestrino in terra getti. Lo ciel possio serrare e diserrare, come tu sai, però son due le chiavi che il mio antecessor non ebbe care. Allor mi pinser gli argomenti gravi, lave il tacer mi fu avviso il peggio, e dissi, padre, da che tu mi lavi di quel peccato, ov'io mo cader deggio, lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfar nell'alto seggio. Francesco venne poi, com'io fui morto, per me. Ma un de neri cherubini gli disse, non portar, non mi far torto, venir sen de giù tra miei meschini, perché diede il consiglio frodolente, dal quale in qua stato li sono acrini, ch'assolver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme possi per la contraddizion che non consente. O me dolente, come mi riscossi quando mi prese dicendomi, forse tu non pensavi ch'io loico fosse. Aminos mi portò, e quegli attorse 8 volte la coda al dosso duro. E poi che per gran rabbia la si morse, disse, questi è de rei del fuoco furo, perch'io là dove vedi son perduto, e sì vestito andando mi rancuro. Quando egli ebbe il suo dir così compiuto, la fiamma, dolorando, si partio, torcendo e dibattendo il corno aguto. Noi passammo oltre, ed io e il duca mio, su per lo scoglio, infino in sull'altr'arco che cuopre il fosso, in che si paga il fio a quei che scommettendo acquistan carco. Fine del canto 27.